Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi vi racconto una storia veramente strana, la storia di un uomo che oggi è stato dimenticato, il suo nome forse non vi dirà nulla, eppure un sondaggio tra i giornalisti sportivi di Associated Press molti anni fa lo ha proclamato il più grande atleta della prima metà del XX secolo. È una storia strana perché il personaggio di cui vi raccontiamo la vita ha vinto medaglie olimpiche nel pentathlon e nel decathlon per gli Stati Uniti, senza essere americano. Ha brillato nell'atletica, ma è entrato nella Hall of Fame del football, ha giocato da professionista nella Major League di Baseball. È la storia di un talento sportivo naturale leggendario, Jim Thorpe, pelle rossa delle riserve, il cui nome indiano era Sentiero Lucente. Secondo una tradizione indiana, quando un bambino nasce, a volte la prima cosa che la madre vede diventa il nome del bambino. In questo caso il sole che sorgeva la mattina, un sole splendente che illuminava un sentiero lucente. Questo aneddoto sulla nascita di Jim Thorpe, riportato da uno dei suoi figli, è passato di racconto in racconto nella sua famiglia. Sul luogo e sulla data della sua nascita, invece, non ci sono notizie certe. Non c'è nessun certificato di nascita e si sa che lui nasce in territorio indiano, in una riserva, nello stato americano dell'Oklahoma, e alcune fonti indicano il 28 maggio del 1887 come possibile data di nascita. Un certificato di battesimo indicherebbe il suo nome completo, Jacobus Franciscus Thorpe. I suoi genitori sono mezzo sangue, come in quegli anni vengono chiamati con disprezzo le persone di sangue misto, perché il padre è figlio di una nativa americana e di un uomo irlandese. La madre ha sangue indiano e sangue francese e Jim viene allevato come un nativo americano. In famiglia lui è Wa-to-uk, appunto sentiero lucente. E la sua prima infanzia lui la vive in una sorta di simbiosi col fratello gemello. Insieme frequentano la scuola indiana di Tecumseh in Oklahoma, uno di quei posti dove il governo americano cerca di cancellare ogni traccia tradizionale dai bambini nativi. Tanto per fare un esempio, i ragazzini hanno tutti i capelli lunghi perché questa è la loro usanza. Bene, cosa fanno gli americani? Glieli tagliano. Nulla rispetto a tutti gli abusi e le angherie che i piccoli frequentatori e indiani, diciamo così, cioè pelle rossa, subiscono in quei luoghi. Quando Jim ha solo 8 anni, una polmonite uccide il suo gemello e su di lui l'effetto di questa tragedia è devastante. E così lui comincia a dare sempre maggiori problemi ai genitori, scappa dalla scuola, costringe il padre a cambiare l'istituto, lo mandano in Kansas, un'altra di quelle scuole che vogliono americanizzare i giovani nativi. La situazione, insomma, non cambia. Sentiamo Nicholas Lemann, che è l'autore di un libro su Thorpe. Ha passato la sua vita facendo dentro e fuori da un'istituzione. Era diviso tra un'esistenza in una famiglia molto disorganizzata e non accogliente e una vita in un'istituzione rigida, molto più simile a un romanzo di Dickens piuttosto che all'America contemporanea. Eh sì, e in questi casi cambiare scuola non serve a molto. E poi arriva un altro lutto. 2 anni dopo il gemello muore la madre, quella che cade addosso a Thorpe, nonostante abbia solo 10 anni, è una vera e propria depressione. Ne fa le spese il rapporto col padre, il suo percorso scolastico va a rotoli e lo racconta un altro suo biografo, Skip Rosin. Quando è andato alla prima Indian School, è fuggito. Dalla seconda Indian School è fuggito di nuovo. Non gli piaceva essere irregimentato. Era costantemente in movimento. Penso che rispecchi il fatto che non si sentiva a suo agio da nessuna parte. Gli scontri col padre diventano sempre più frequenti. Jim, ormai adolescente, scappa di casa, trova lavoro in un allevamento di cavalli dove rimane fino al 1904, quando dovrebbe compiere pressappoco 17 anni. Poi ha un ripensamento, torna a casa dal padre che lo iscrive alla scuola indiana di Carlisle in Pennsylvania, è forse la peggiore scuola di tutte, come racconta Oren Lyons, capo tribù degli Onondaga. La gente dovrebbe scendere e guardare Carlisle. C'erano delle celle sotterranee di isolamento dove tenevano i bambini. Molte persone volevano bene agli indiani, ma a distanza, come ai lupi. I lupi ci piacciono, ma ne abbiamo paura e li uccidiamo. Ed è lo stesso trattamento che gli americani, gli statunitensi, riservano a quelli a cui hanno portato via tutto, a cominciare dalle terre per finire con la dignità. Questo è il contesto in cui cresce Jim Thorpe, come tanti suoi coetanei che hanno la sfortuna di essere nativi americani. Però per contro c'è una fortuna che è quella del corpo, perché lui arriva a 1,85 m, manifesta dotti atletiche naturali veramente incredibili. Se gli dicono di provare un salto in lungo, lui alza le spalle, lo fa e supera tutti. Un salto in alto, lo stesso, e così via fino alla corsa. Di qualsiasi distanza si tratti, lui sorride, inizia a correre e batte gli avversari. Thorpe è adatto e portato a quasi tutte le discipline sportive di squadra individuali. È pronto a costruire la propria leggenda. Il falco e il gabbiano. E Jim Thorpe sta per diventare una leggenda, una figura mitica dello sport a stelle e strisce, quando gli Stati Uniti ai cosiddetti pelle rossa non concedevano la cittadinanza e il diritto di voto. Pensate al paradosso. Stiamo raccontando una leggenda dimenticata, che passa da un'infanzia difficile trascorsa a scappare da quelle scuole pensate dal governo americano per civilizzare i figli del popolo, quelli che avevano sottomesso alla fine dell'Ottocento. Ma Jim Thorpe è diverso dagli altri, ha avuto un dono dalla natura, doti fisiche e sportive eccezionali, una propensione a tanti sport che non necessitava di apprendimento o di allenamento specifico. Sentiamo l'ex moglie Frida. Se qualcuno gli chiedeva se sapeva fare qualcosa, lui semplicemente si alzava e la faceva. Non si è mai sentito in dovere di allenarsi per diventare un buon atleta. Lui era un atleta naturalmente. Sono caratteristiche che emergono già nel periodo dello sviluppo. Da adolescente si distingue rispetto ai coetanei perché ha un fisico veramente già strutturato. È alto, è muscoloso, è veloce, è una specie di vulcano di energia fisica. È difficile da contenere, da incanalare, e ci riesce un suo insegnante, allenatore di football, Glenn Pop Warner, che è una figura mitica dello sport americano. E questo signore lo convince a entrare nella squadra di atletica della Carlisle High School, e sugli esordi sportivi di Thorpe nascono le prime leggende. Si racconta per esempio che nel 1907, in un giorno imprecisato, Jim decide di improvvisarsi saltatore in alto, indossa normali pantaloni, non ha mai praticato quella disciplina. Al primo tentativo della sua vita salta in alto 1,75 m con abiti borghesi, battendo tutti gli altri studenti. Non c'è conferma su questa storia, ma è sicuramente più che credibile, anche perché da quel momento vengono registrati i suoi primi risultati sportivi. Siamo nel 1907. Insomma, Thorpe è un atleta totale, può fare quasi tutto. Infatti non si limita all'atletica leggera. Eh sì, perché mentre frequenta la scuola di Carlisle pratica anche il football americano e il baseball, e poi ha anche un certo talento nei balli da sala. E insomma, nel 12 per esempio vincerà un campionato di ballo, ma un anno prima si era messo in mostra nel football, perché giocava già nel 1911 nel ruolo del running back nella squadra della scuola. Si gioca contro la formazione di Harvard, finisce 18-13 per Carlisle, e chi segna tutti i punti? Lui, naturalmente, Thorpe. E solo un anno dopo trascina la squadra ai campionati nazionali del college, segnando nelle tabelle delle statistiche, per le quali gli americani vanno pazzi, 25 touchdown e 198 punti totali. E quello stesso anno il Carlisle straccia la squadra dell'Accademia Militare degli Stati Uniti 27-6, un'umiliazione, e Jim segna un touchdown da 97 yard, quasi 90 metri, di record in record. Thorpe viene eletto nell'11 e nel 12 tra i migliori atleti dell'anno. Ma paradossalmente i risultati maggiori arriveranno proprio dallo sport a cui lui dedica meno tempo, cioè l'atletica, e almeno in termini di fama sarà lì che lascerà il segno, perché nella primavera del 1912 inizia a allenarsi per le Olimpiadi. Fino allora ha dedicato la maggior parte dei suoi sforzi al salto in alto, al salto in lungo, agli ostacoli, al lancio del peso, e poi aggiunge altre discipline così a caso: salto con l'asta, giavellotto, lancio del disco e del martello, prende parte ai trials, le competizioni che da sempre selezionano gli atleti che prenderanno parte alle Olimpiadi, e per lui sono uno scherzo. Entra nella squadra di pentathlon e in quella di decathlon e viene iscritto anche alle gare di salto in alto e salto in lungo. Sembra incredibile oggi, che sono abbastanza incompatibili insomma le due discipline, e lui si qualifica in entrambi i casi e inizia la sua avventura olimpica. Siamo a Stoccolma, si inizia con il pentathlon e lui vince 4 delle 5 gare di specialità. Nel giavellotto, che non aveva mai praticato fino a qualche mese prima, arriva terzo, ovviamente conquista l'oro. Poi si qualifica alla finale del salto in alto e arriverà quarto, nel lungo arriverà soltanto settimo, e nelle foto ufficiali lo si vede con due scarpe diverse, sì, perché in quella giornata, prima di tutte le gare, qualcuno gli ruba le scarpe, lui si arrangia con quello che trova in un cesto della spazzatura. Con due scarpe diverse di un paio di numeri di troppo, lui vincerà le sue gare. Nel frattempo le gesta di quell'americano anomalo cominciano a richiamare il pubblico allo stadio, i giornali ne scrivono, come lo ricorda anche uno storico delle Olimpiadi, lo svedese Ove Karlsson. Entrando allo stadio, pochissime persone sapevano qualcosa di Jim Thorpe. Notarono che era un indiano, quindi ovviamente sui giornali a volte veniva menzionato semplicemente come indiano. L'ultimo impegno olimpico per Thorpe è il decathlon, dove è dato per favorito l'idolo locale, si chiama Hugo Wieslander, ma Jim lo straccia, vince l'oro con 700 punti di distacco, fissa un record, 8.413 punti, che resterà imbattuto per quasi 20 anni. Alla fine dell'Olimpiade di Stoccolma, praticamente Thorpe avrà collezionato 8 vittorie su 15 competizioni disputate nelle singole discipline. Poi prenderà parte anche a 2 match di esibizione di baseball. Non è la sua prima esperienza in quello sport, come scopriremo poi gli causerà presto dei problemi. In ogni caso, al termine di quell'Olimpiade riceve un premio in denaro direttamente dal re di Svezia Gustavo V, che gli stringe la mano e gli dice: lei signore è il più grande atleta del mondo. E la risposta di Jim Thorpe è semplice, come è semplice lui: grazie re. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di una leggenda dimenticata, Jim Thorpe, 2 volte oro olimpico nel 1912, decathlon e pentathlon, ma anche campione di football americano e professionista nella Major League di Baseball. È il simbolo dell'America sportiva di inizio del secolo, proprio lui che da nativo americano, mentre partecipava ai giochi, non poteva neanche votare negli Stati Uniti. Eh sì, perché quando torna dalle Olimpiadi di Stoccolma con 2 medaglie d'oro al collo, lui non ha ancora il diritto di cittadinanza in quanto indiano delle riserve, come conferma Robert Rising, autore di un libro sul nostro protagonista. Dopo le vittorie olimpiche, il presidente americano Taft lo indicò come un cittadino modello degli Stati Uniti, ma in realtà lui non era un cittadino. Dal momento che era nato in Oklahoma, in territorio indiano, non godeva del diritto di cittadinanza nel 1912. Rientra in patria da trionfatore, viene portato in parata a Broadway con i palloncini, coriandoli colorati. Ricorderà quel momento con una frase: sentivo la gente urlare il mio nome, non mi capacitavo di quanti amici potesse avere un uomo solo. Forse tutta quella fama e tutti quegli onori a un nativo americano danno fastidio a qualcuno. Siamo all'America di inizio secolo, le battaglie per i diritti civili sono ancora lontane e il massacro dei Pelle Rossa è ancora invece recente, ne abbiamo parlato più volte. Insomma, per Thorpe è in arrivo uno scandalo che gli sfilerà dal collo le sue amate medaglie. In quegli anni c'erano regole molto rigide riguardo alla partecipazione alle Olimpiadi che erano precluse ai professionisti e Pierre de Coubertin era stato molto chiaro. Così all'inizio del 1913 un giornale pubblica la notizia che Thorpe aveva giocato a baseball da professionista e la notizia viene ripresa dagli altri giornali. Lui candidamente ammette di aver partecipato ai campionati estivi di una lega minore nel 1909 e nel 10 con un compenso di $2 a partita, diciamo $50 di oggi. E lo avevano fatto tutti, però gli altri erano stati più furbi perché avevano usato degli pseudonimi e quindi era difficile risalire a chi avesse percepito del denaro. Lui no. Spero di essere almeno in parte scusato per il fatto che ero solo uno studente indiano e non sapevo molto di queste cose. Non sapevo di fare qualcosa di sbagliato perché lo facevano anche molti altri ragazzi dei college, con la differenza che loro non usavano i loro veri nomi. Il pubblico naturalmente è disposto a perdonare questo piccolissimo peccato a Thorpe, ma le istituzioni sportive americane invece la prendono molto sul serio. Viene dichiarato professionista con effetto retroattivo, gli vengono tolti i titoli e le medaglie e la botta è veramente tremenda per lui. L'unico risvolto positivo è che la vicenda mediatica, come si direbbe oggi, gli procura delle offerte dal mondo del baseball che aprono una nuova fase della sua carriera. E così lui comincia a giocare a baseball in primavera e estate e a football nei mesi autunnali e invernali, insomma una doppia carriera che gli porta denaro e fama. Continua nel baseball nei 15 anni successivi, passa dalla Major League alle serie minori, gioca in quella che diventerà l'NFL del football. Una recente classifica lo vede al 37° posto dei football player migliori di sempre e stiamo parlando di 130 anni di storia del football americano e insomma, però arrivano tempi cupi un'altra volta perché sugli Stati Uniti cala la scure della Grande Depressione, così inizia un periodo di difficoltà aggravate dal vizio che Jim ha fin dal 1913 che gli è già costato l'abbandono da parte della prima moglie. Il vizio è l'alcol. E poi per lui è difficile mantenere la famiglia perché ai 4 figli avuti da Iva, la prima moglie, si aggiungono i 4 avuti dalla seconda. Così si adatta a qualsiasi lavoro, a partire dalla comparsa nei film western, quelli in cui gli indiani sono cattivi e ignoranti, mentre i soldati bianchi sono forti e coraggiosi. Hollywood, lui ha ruoli di basso livello, neanche citati nei titoli di coda, fa 1000 lavori, il buttafuori, il muratore, il marinaio e nel 50 viene operato per un tumore alla bocca, solo grazie alla beneficenza può pagare i conti dell'ospedale, perché in America se non hai una carta di credito ti lasciano sdraiato per terra. Proprio quell'anno i giornalisti sportivi dell'Associated Press lo eleggono miglior atleta della prima metà del XX secolo e nel 51 il cinema si ricorda di lui, esce il film Pelle di rame, ispirato alla sua vicenda, e Thorpe è interpretato da un giovane atletico Burt Lancaster. Jim Thorpe, all American, the man of bronze who became the greatest athlete of all time. An Oklahoma Indian lad whose untamed spirit gave wings to his feet and carried him to immortality. I can't be sure because I've never been in love before, but, well, I thought you ought to know. It's Burt Lancaster as Jim Thorpe, the nation's all-American pride. Dal film, però, Thorpe non ricava nulla perché i suoi diritti cinematografici erano già stati venduti prima per $1,500. E arriviamo al 28 marzo del 1953. Lui sta pranzando con la sua terza moglie nella roulotte nella quale vivono a Lomaita in California. Viene colpito da un infarto. Viene rianimato, sembra riprendersi, ma riperde conoscenza e muore. Dalla morte, per molti anni a seguire, i suoi figli hanno condotto una battaglia per fargli riassegnare le medaglie tolte nel 1913, una sorta di riabilitazione sportiva postuma. Ci sono riusciti solo dopo veramente parecchio tempo, nel 1982, quando il Comitato Olimpico ha finalmente accettato di rivedere la propria posizione e ha riconsegnato le medaglie ai figli nel corso di una cerimonia pubblica. Di tutta questa vicenda e di Thorpe in generale vogliamo parlare oggi con Dario Ricci, che è un grande esperto in Olimpiadi, in sport, in Olimpiadi soprattutto, quindi in leggende, no? Eh sì, sono anche quelle che raccontiamo la domenica alle 20:30 in Olimpia, e quindi insomma il nome è già tutto un programma. Sono le grandi leggende olimpiche. Dunque, noi stiamo raccontando questa storia strana, forse un po' dimenticata, la storia di Jim Thorpe. La prima domanda che ti voglio fare è: so benissimo che insomma in quegli anni il principio decubertiniano era, come dire, rigido fino all'esasperazione, ma nelle medaglie tolte a Thorpe del 13 e c'è più burocrazia sportiva o razzismo? Direi decisamente il secondo, Enrico, perché a quell'America, come forse anche quella di oggi, che sta lentamente cambiando, l'idea che un indiano potesse essere il suo sportivo più vincente sicuramente non piaceva, disturbava parecchio, e tutti i retroscena che avete raccontato dietro quelle medaglie tolte e restituite solamente a decenni di distanza lo testimoniano. Non era certo un segreto che Thorpe aveva giocato quelle poche partite da professionista, perché tutti lo facevano, certo. Avevano solo un'accortezza di cambiare nome, di usare uno pseudonimo. Esatto, e quindi in qualche modo l'americano medio in quegli anni era affascinato da Thorpe o era una figura che lo metteva un po' in imbarazzo? Beh, probabilmente anche in questo caso era più l'imbarazzo, perché siamo in un periodo in cui veramente la diversità rispetto alla razza dominante è vista ancora come quasi un oltraggio, mi viene da dire. Basti ricordare cosa era accaduto pochi anni prima ai giochi di St. Louis, dove erano stati organizzati dei giochi, delle gare che includevano proprio tutte le minoranze. Sì, dai nani agli indiani. C'era addirittura Toro Seduto che firmava degli autografi in tribuna per cercare di raccattare qualche spicciolo. Pensa a quella pagina di St. Louis. Sì, forse sì, le Olimpiadi di St. Louis, un giorno dovremmo parlare. Sono delle Olimpiadi forse le più cialtronesche tra tutte. Beh, o comunque le meno sportive. Diciamo nel senso... che sono sicuramente sul podio, per dire. Quella è sicuramente una delle pagine più nere delle Olimpiadi decubertiane. Ma pensa che 4 pallanuotisti in quelle Olimpiadi morirono di tifo, perché le gare di pallanuoto e di nuoto si svolgevano in un immenso vascone dove venivano lavati i cavalli. Quindi 4 pallanuotisti morirono di tifo, per dire, bello, l'organizzazione. Bello, dobbiamo fare un po' di puntate sulle Olimpiadi. Senti, poi gli americani alla fine insomma passano i decenni, i figli di Thorpe si battono per riabilitare il padre e alla fine insomma ci mettono una pezza, ma oggi è ricordato a sufficienza Thorpe per quello che valeva. Beh, sicuramente c'è una fondazione che ne perpetua la memoria, e poi del resto nella storia americana lo sport è l'Olimpiade, e quindi chi diventa grande attraverso e dentro quei 5 cerchi entra nell'impero per sempre. È chiaro che è sempre amaro vedere vittorie e medaglie meritate sul campo riconosciuti postumi, no? Certo. L'ultima domanda che volevo farti era: Thorpe era un atleta anomala, cioè oggi sarebbe impensabile, correva, saltava in alto, in lungo, poi giocava a baseball, eccetera. Cioè, c'è qualche atleta nei decenni successivi, mi auguro, immagino non oggi, ma che poteva in qualche modo incarnare questo tipo di attitudine così poliedrica? Bene, la domanda che mi fai c'è già un pezzetto della risposta, perché oggi non sarebbe più possibile, oggi... no? Ma in quello sport, diciamo fino agli anni 20-30, invece era proprio la poliedricità il valore aggiunto. Erano sportivi che si amavano il cimento, si mettevano alla prova, quindi li provavano un po' tutti le discipline prima di scegliere quella in cui eccellevano. Epigoni di Thorpe, beh, ti faccio 2 nomi, uno magari quasi sconosciuto e più, l'altro invece parecchio noto. Bene, mi viene in mente Reinaldo Neymaia. Chi è stato Reinaldo Neymaia? È stato il primo uomo a correre 110 ostacoli sotto i 13 secondi, sì. Quindi detentore del record del mondo sui 110 ostacoli, che però scelse di giocare anche a football americano in virtù delle sue grandissime qualità di velocista, ma anche nel saltare gli ostacoli. Certo. Giocò con i San Francisco 49ers per 3 stagioni e poi tornò all'Atletica, sempre con buoni risultati. E qui siamo negli anni 90. Siamo negli anni 80, da cavallo tra fine anni 70 e inizio 80, anni 80. Sì. E poi c'è stato un giocatore che alle Olimpiadi ha fatto discretamente bene nel suo sport preferito, il basket, tanto che l'ha vinto un paio di volte. Anche in ambito non olimpico ha fatto abbastanza bene nel basket, ma poi si è un po' annoiato di questa palla di gomma che rimbalzava nel parquet ed è tornato per un paio d'anni al suo grande amore, che era il baseball, proprio per provare a cimentarsi anche in quest'altro sport. I risultati furono discretamente modesti, tant'è che decise poi di tornare al basket e tornò ad essere nuovamente vincente. Lo sai chi è? Michael Jordan. Ah, vedi, quindi ci sono questi casi, anche se qua... Poi ha scelto Michael Jordan. Direi che ha fatto benissimo. Dario, io ti ringrazio infinitamente per averci aiutato a raccontare questa strana storia americana. Grazie a te, allora ti aspetto una volta Olimpia, volentieri, quando vuoi, olimpiche. Io adoro imparare cose sulle Olimpiadi. A presto e grazie. Ciao Dario. In qualche modo Jim Thorpe è nella memoria degli appassionati, perché dal 1986 esiste il Jim Thorpe Award, che è il premio per il miglior defensive back del campionato universitario di football, e nel 98 il governo americano ha emesso un francobollo commemorativo da 32 centesimi. Thorpe è raffigurato come la stella di Stoccolma, un suo ritratto nello sfondo, mentre in primo piano lo si vede spiccare un salto, naturalmente in alto. Ed è proprio in alto che si sale e poi si scende, e così proseguono i nostri racconti, i nostri colpi d'ala anche molto romantici, come quello di Jim Thorpe, il pelle rossa che vinceva e che non piaceva a quelli che avevano appena fatto ai pelle rossa tutto quello che sappiamo. Però la storia è stata in qualche modo equilibratrice, perché oggi Jim Thorpe è tornato a essere ricordato come la stella di Stoccolma. E se avete delle storie che noi volete che noi si racconti, mandateci dei commenti o segnalateci i vostri desiderata a ilfalcoilgabbiano@radio24.it, o visitate la nostra pagina, o venite nei miei social Facebook, Twitter, nei nostri social, quelli appunto del Falco e il Gabbiano. Insomma, vi aspetto, perché lo sapete, se volete, sapete dove trovarmi.